Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, l'appuntamento del martedì con il calcio internazionale viene preceduto oggi brevemente da due notizie. Quella brutta è la scomparsa di Cesare Rubini, uno dei più grandi personaggi della storia dello sport italiano di tutti i tempi. Rubini era nato a Trieste il 2 novembre del 1923, è stato un grande pallanuotista, prima che un grande cestista, tanto da essere l'unico sportivo al mondo, inserito nella Hall of Fame di due sport. Con il Settebello ha conquistato l'oro alle Olimpiadi di Londra nel 1948 e il bronzo a Helsinki 52. Poi, da allenatore e giocatore dell'Olimpia di Milano, Rubini ha conquistato grandi successi nel basket, replicati poi in nazionale. Era una grande persona, ha ricordato per esempio Dino Meneghin, un grandissimo personaggio. Solo così puoi spiegarti come sia riuscito a far parte addirittura di due Hall of Fame, quella del basket e quella della pallanuoto, come a nessun altro atleta al mondo è mai riuscito. La notizia invece di segno positivo è che Emiliano Mondonico è pronto addirittura a rientrare in panchina. Oggi è stato dimesso dall'ospedale Bolognini di Seriate, dopo 8 giorni fa era stato operato all'addome. Si aspettano esiti di esame, ma i medici sono ottimisti. In una settimana circa di convalescenza dovrebbe rimettersi. Martedì prossimo dirigerà il suo primo allenamento e sabato 19 febbraio tornerà in panchina per guidare l'Albino Leffe contro il Padova. Già che ci siamo, sentiamo anche, prima di collegarci con Fabio Tavelli, sentiamo brevemente la formazione dell'Italia per Germania e Italia di domani sera a Dortmund, annunciata poco fa dal CT Prandelli. Giochiamo con Buffon, Cassani, Chiellini, Bonucci, Ranocchia, Thiago Motta, De Rossi, Montolivo, Mauri, Cassano e Pazzini. Questi sono gli 11 dunque scelti da Prandelli. Fa rima e quindi ci colleghiamo col ministro degli esteri, con Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Beh, fai rima con un CT, non è una roba che... Non so se a lui faccia piacere. Eh beh, sa, se siete pure diciamo di area bresciana entrambi. Di area. Senti, tra i tanti argomenti possibili di oggi, io partirei da quello delle rimonte. Perché? Perché in Italia la rimonta, diciamo che è nell'aria, no? Io oggi su questa rubrica del Sole 24 Ore, che al martedì mi fanno il piacere e l'onore di affidarmi, ho detto che in Italia si può passare dalla pagnolada alla remontada, per usare due termini spagnoli. In effetti il debutto della pagnolada nelle tribune nerazzurre di San Siro è stata una roba leggermente patetica, anzi forse qualcosina di più domenica sera. La remontata invece potrebbe essere nell'aria, anzi direi che lo è. Tra sabato e domenica ce ne sono state altre in altre nazioni che mi pare abbiano fatto una discreta sensazione. Sì, fermo restando che la remontata ha una connotazione poi negativa, perché era quella che chiedevano i tifosi culés, i tifosi del Barcellona, alla Barcellona contro l'Inter, e poi sappiamo che la remontata non ci fu. Certo. E quindi non so se poi quelli dell'Inter la vorranno sposare fino in fondo. Ma detto questo, sì, è stata la settimana delle rimonte, perché il Bayern di Monaco stava vincendo 2-0 in trasferta a Colonia ed era abbastanza tranquillo, e tra l'altro era anche una delle poche partite nelle quali il Bayern poteva gonfiare il petto nei confronti del Borussia Dortmund e dire vabbè, ma stavolta gliene abbiamo recuperati due, perché nell'anticipo, nel derby della Ruhr, il Borussia Dortmund aveva pareggiato contro lo Schalke 04, un 0-0, nel quale comunque la squadra prima in classifica ha avuto delle occasioni. E poi invece è cambiato tutto, perché c'è stata davvero la rimonta, ed è stata una rimonta completata, perché la rimonta tecnicamente credo possa dirsi quando poi si arriva al pareggio, ma la rimonta quando viene completata con il sorpasso, e in questo caso c'è stato il sorpasso da parte della squadra di casa, che ha compiuto credo un'impresa straordinaria, perché rimontare due gol e poi farne anche un terzo al Bayern di Monaco, insomma, in Germania sia un fatto più unico che raro, e che quindi insomma vada scritto a merito del Colonia. L'altra rimonta, che non è stata invece poi, ma onestamente per fortuna, altrimenti avremmo assistito a qualche suicidio, è stata quella del 4 pari a St. James's Park tra il Newcastle e l'Arsenal. Al primo tempo 4-0, abbastanza tranquillo a parte dell'Arsenal, fino al 67esimo ancora 4-0, e poi Il Newcastle segna quello che solitamente la retorica chiama il gol della bandiera. Certo, perché manca 20 minuti. Apposta. Invece è cambiato tutto. È cambiato tutto intanto perché il Newcastle è una squadra di grande tenacia, di grande carattere e non è nuova a situazioni, soprattutto a casalinghe, nelle quali fa valere appunto queste caratteristiche, tenendo anche conto che il Newcastle ha perso il suo giocatore più forte, cioè Carroll, acquistato dal Liverpool pochi giorni prima con i soldi incassati dalla cessione di Torres. E allora che cosa succede? Succede che il Newcastle fa 2-4, succede che l'arbitro assegna un calcio di rigore sinceramente generoso con espulsione, e a quel punto l'Arsenal prende paura e il Newcastle segna anche un grandissimo gol del 4 pari con Tioté, un sinistro meraviglioso dai 20 metri, e a quel punto lì all'Arsenal è andato anche bene pareggiare, anche perché è stato il weekend che ha visto la prima sconfitta del Manchester United, quindi è paradossale, ma una partita nella quale non puoi andarvi felice perché stavi 4-0, alla fine il saldo ti dice che hai recuperato un punto sul Manchester United. Certo. Manchester che tra l'altro è atteso dal derby con il City nel prossimo turno, io direi di richiamare Fabio, di migliorare la qualità del collegamento, e intanto io ricordo qualche rimonta storica avvenuta negli anni, per esempio non so, lo scorso anno in Coppa d'Africa l'Angola vinceva 4-0 col Mali ed è finita 4-4, in Bundesliga quest'anno a fine agosto la prima giornata il Wolfsburg vinceva 3-0 col Mainz ed è finita 4-3 per gli altri. Rimonte storiche anche nel campionato italiano. Adesso magari aspetto di ripristinare il collegamento con Fabio Tavelli, ma noi possiamo anche far di meglio, possiamo nel frattempo guadagnare tempo e sentire cominciare a sentire come va sulle strade italiane. Torniamo alle rimonte, anzi restiamoci. Volevo sapere da Fabio Tavelli se c'era qualche precedente magari ancora più clamoroso di calcio estero, poi te ne racconto un italiano. Guarda, io ho trovato una partita tra l'Huddersfield e il Charlton, giocata in casa del Charlton, però parliamo di calcio un po', cioè dobbiamo tornare indietro, se non sbaglio 57-58, nella quale la squadra di casa era in vantaggio per 5-1 e poi un giocatore del Charlton fa 4 gol, Summers, la squadra non solo pareggia, ma riesce poi ad andare anche avanti. Insomma, la partita finisce 7-6 per il Charlton ed è un qualcosa di pazzesco, sì. Tenendo davvero presente che parliamo di un calcio diverso, ma sì. un calcio del secondo dopoguerra. Però ecco, come rimonta completata così, insomma, una squadra sotto 5-1 che vince 7-6 non è malissimo. No, tutt'altro. Giusto un gradino meno, cioè 6-5 anziché 7-6, insomma, se ne è parlato per decenni e se ne parlerà ancora. Pochi anni prima, nel 49, era successo in un derby a Milano, vinceva 4-1 il Milan, si andò 5-4 per l'Inter, Annovazzi, il mediano del Milan, trovò la forza ancora di pareggiare, ma poi ci fu il colpo vincente di Amadei che al 64esimo tra l'altro segnò il 6-5 finale, e poi per gli ultimi 26 minuti esausti evidentemente non riuscirono più ad arricchire, no, questo score. Credo che tra l'altro un'altra grande rimonta fu proprio ad opera dell'Inter in una finale di Supercoppa italiana contro la Roma, se non ricordo male da 0-3 a 4-3, in una partita estiva, credo la prima di Mourinho, e poi naturalmente spiace ricordarlo soprattutto ai tifosi del Milan, quel 3-0, 0-3, cioè, 3 pari di Istanbul contro il Liverpool, queste sono quelle massime. Sì, quando succedono ti sembra sempre dei fatti epocali, poi in realtà le rimonte ci sono e come, anche se per trovarne di così incredibili, cioè per arrivare a un 7-6 per esempio bisogna tornare indietro di 50 e passa anni. Fabio, ho notato che Cech, che Casillas, che insomma grandi portieri europei stanno passando un momento, poi c'è chi paga dazio come Cech e chi non lo paga magari come Casillas, però non sembrano più essere i fenomeni di qualche tempo fa. Ma guarda, Cech alterna, ma anche Casillas, devo dire, io insomma sinceramente pensavo che Casillas, cioè, ho sempre pensato anche negli anni scorsi che Buffon e Casillas fossero i più grandi portieri, prima dell'esplosione di Julio Cesar, che Buffon e Casillas fossero abbastanza inarrivabili, anche se Buffon mi ha sempre dato una sicurezza superiore a Casillas, cioè grande qualità anche da parte di Casillas, due portieri tra l'altro arrivati prestissimo e quindi con con il fatto di essere arrivati già maturi a una giovane età. Sono due campioni del mondo e quindi massimo rispetto, e ci mancherebbe. Però in questo weekend vedere Cech uscire in maniera sinceramente imbarazzante nell'occasione del gol di Raul Meireles a Stamford Bridge, vedere Casillas fare un paio di grandi parate, ma anche avere un paio di indecisioni colossali, ma soprattutto il primo tempo di Cagliari di Buffon con due uscite, sì, onestamente da tremarella, messe tutte insieme, mi sono sembrate abbastanza curiose, accoppiate poi al fatto che l'ultimo a giocare è stato Julio César, e invece certo, Julio César ha fatto una partitona, e tra l'altro, come dire, sublimando un periodo nel quale c'è stato un miglioramento netto, perché il Julio César dell'ultima fase, complice anche qualche infortunio, era sembrato un po' meno sicuro. Ecco, diciamo che contro la Roma si è rivisto un grande portiere in un weekend, ripeto, dove altri grandi portieri invece hanno avuto parecchie indecisioni. Certo, tant'è vero che se domenica sera, indipendentemente dalla qualità delle squadre, ma si avessero giocato a portieri cambiati, io non so come finiva quella partita, forse sarebbe cambiato anche il risultato, soprattutto il primo tempo, è ovvio, però dopodiché Julio César è il portiere dell'Inter, e che portiere quando torna a star bene. Senti, tentiamo magari un check Champions, visto che tra una settimana esatta ricomincia la kermesse, e potremmo magari vederla in una chiave, come dire, iniziale, in una chiave di approccio, e cioè: quali sono i campionati che meglio ti preparano a questo rientro, cioè quelli che ti usurano meno rispetto a quelli che invece ti richiedono sforzi eccessivi? Esistono differenze? Secondo me sì, e la differenza è anche sostanziale, perché il campionato inglese, quando parlo di campionato però dobbiamo unire anche l'FA Cup e la Carling Cup, a parer mio preparano da un certo punto di vista, ma logorano dall'altro. Cioè preparano perché comunque gli inglesi vivono costantemente sull'onda del dentro fuori nelle loro coppe, soprattutto perché l'FA Cup è dentro fuori senza ritorno, a meno che non ci sia il replay, e quindi abitua anche mentalmente i giocatori a giocarsela fino alla fine. Sì. E, oltretutto è un campionato che, nonostante il fatto che il Manchester United sia largamente in testa, nel senso che è in testa da molte giornate, è un campionato che tiene aperte molte porte, al contrario invece della Liga Spagnola, dove invece io sto cominciando a pensare che tutto questo margine che Barcellona e Real Madrid hanno, anche se un paio di volte il Real Madrid ha zoppicato, ma il Barcellona ha vinto la 16ª partita consecutiva, stabilendo anche un record e portandolo via al Real di Di Stefano. Ecco, io penso che nonostante che siano quasi più allenate le squadre spagnole attraverso la Coppa del Re, che è molto sentita in Spagna, rispetto a un campionato dove è veramente raro che si arrivi nell'ultimo quarto d'ora con il risultato ancora in bilico, e questo io penso che a livello di Champions si possa pagare. Penso al Lione dei tempi d'oro, del Lione che vinceva 8 titoli di fila, che poi regolarmente arrivava ai quarti di finale di Champions League e spesso prendeva gol nella gara di ritorno negli ultimi minuti, ad esempio lo fece in un quarto di finale contro il Milan, perché la squadra rossonera, cioè Ancelotti, era comunque più allenata a vivere quei momenti e a vivere quelle tensioni, che invece i giocatori dell'Olympique Lyonnaise non avevano più, perché le partite le vincevano sempre in maniera molto molto comoda. Penso alla Montepaschi Siena nel campionato italiano, ecco, una squadra che poi in Eurolega non ritrova più le stesse condizioni e fa fatica, perché magari quest'anno un po' meno, ma in passato è stato molto netto, quando vinci sempre di 20-30 punti negli ultimi 5-6 minuti metti in campo i ragazzini e non hai più quella tensione di doverti giocare tutto all'ultimo tiro, come invece accade in altri campionati. C'è un ascoltatore che si chiama Renato da Vittorio Veneto, che ha la memoria di ferro evidentemente, perché mi cita un Tottenham Manchester United 3-0 primo tempo, 3-5 finale, mi dice anche i marcatori: Blanc, Veron, Beckham, Solskjaer e Van Nistelrooy. Poi invece ce n'è qualcuno che ricorda più o meno bene, cioè da 0-2 a 3-2 in 3 minuti per il Toro in un derby dell'82. No, Corrado, era un derby dell'83, per l'esattezza del 27 marzo 83. C'è un altro ascoltatore, Francesco da Milano, che lo ricorda, dice: sono juventino ma la ricordo quella tripletta di Dossena, non fu affatto una tripletta di Dossena, Dossena segnò il secondo gol. È bella questa sicurezza che il primo signor Bonesso... Io però, se tu me lo permetti, sì, voglio citare anche un Juve Toro 3-0, tre pari con calcio di rigore sbagliato da Salas. Come con, no, con Scavetto di Maspero. Con Scavetto di Maspero, questo è molto più recente. E sì, sì. Invece lì parliamo ormai di 28, quasi 28, 28 anni fa. E, va bene, io chiuderei, Fabio, questo capitolo con questo testa a testa Messi-Ronaldo, perché insomma, stamattina Platini ha... parlando del Barcellona in un'intervista a un quotidiano catalano ha detto che che Messi è il diamante di una squadra meravigliosa, cioè, Ronaldo non è molto meno diamante indubbiamente, e sarà poi divertente vedere a gioco lungo, sarà interessante, curioso, chi di questi due andrà più lontano dal punto di vista della gloria imperitura e quale gradino di podio magari di tutti i tempi riusciranno a salire, ma già adesso questa lotta è affascinante. Sì, questa lotta è fantastica. Devo dire che Ronaldo parte svantaggiato per due motivi, perché Messi gioca comunque in una nazionale più forte e gioca comunque in una squadra che ha un impianto già costruito, e lui si è innestato perfettamente contribuendo a renderlo quasi invincibile. Ronaldo invece gioca in una nazionale come il Portogallo che ha un ottimo impianto classico mutuato dalla sua storia, ma che non è accreditata per essere forte come l'Argentina, cioè ha dei compagni meno forti rispetto a quelli di Messi, ed è in una squadra come il Real Madrid nella quale lui è spesso costretto a tirarsi sulle maniche, cosa che peraltro non mi risulta gli dispiaccia, per cercare di risolvere da solo le cose, perché sì, è una squadra che ha un impianto completamente diverso, cioè come il 90% delle squadre al mondo non ha uno standard classico, cioè non ha una velocità di crociera o un pilota automatico come invece ha il Barcellona, ha l'Arsenal o altre 3-4 squadre in tutto il pianeta. Quindi io trovo che Messi, cioè, se devo dirne uno con una pistola alla tempia dico Messi, ma giusto se sono costretto, però penso anche davvero che Ronaldo da questo punto di vista sia costretto a un qualcosa in più. Ecco, poi sono giocatori che fusi insieme farebbero, credo, Dio, perché hanno anche, fatto uno è destro, l'altro è mancino, uno è bravo, sì, di testa, sì, l'altro è cioè, andrebbero davvero fusi. Ronaldo spopola su internet con questo colpo di schiena di domenica che è meraviglioso. Lui era in fuorigioco, stava rientrando da un fuorigioco, il cross arriva lungo e è abbastanza alto, lui si gira, la palla gli rimbalza sulla schiena e grazie a questa sponda lui poi supera Estrada, il difensore della squadra avversaria della Real Sociedad, e di fatto si libera per un tiro, poi l'arbitro fischia perché Ronaldo era in fuorigioco, però è l'ennesima dimostrazione che questi due veramente sanno fare qualsiasi cosa con la palla e ogni tanto se la portano pure a casa perché fanno triplette. È vero, assolutamente vero. Fabio, io credo che, visto ormai il tempo è praticamente scaduto, ma visto che dalla settimana prossima ti ritoccheranno gli straordinari, per oggi potremmo forse fermarci qua, insomma. Guarda Gigi, io adoro sempre, perché ormai è una cosa che si ripete negli anni, quando si arriva al primo martedì e la tua apertura di trasmissione è quella che a me piace di più, cioè tu dici finalmente la Champions League diventa la Coppa dei Campioni, allora sarà un piacere sentirtelo dire martedì prossimo. Fantastico, allora appuntamento tra 7 giorni con questo, cercherò di ricordarmi questo rito, eh? Va bene. Grazie. Buona giornata Gigi a tutti. Grazie a Fabio Tavelli. Tanti messaggi, molte richieste di intervento da parte vostra che vedremo di esaudire nella seconda parte della trasmissione. Giordano da Macerata che scrive: la scorsa settimana in eccellenza il Fermo perdeva 0-4 e ha vinto 5-4. Beh, insomma, le rimonte arrivano in tutte le categorie, evidentemente. Una frase di Buffon molto forte, di cui non abbiamo ancora il file audio al momento, ma che vedo rimbalzare dalle agenzie, molto forte, perché ha detto: i nostri guai interni, e non parlava da capitano nazionale, ma non stava parlando di calcio, i nostri guai interni, loro ci sguazzano, ha detto a proposito del mondo, e poi è stato più chiaro: almeno noi proviamo a dare all'estero l'immagine di un'Italia unita, forte e di primo piano. Intervallo, sentiamo come va sui mercati. Torniamo in onda con qualche aggiornamento che riguarda la vigilia azzurra, poi è ovvio che la giornata di Germania-Italia sarà quella di domani, ma insomma, per esempio Thiago Motta ha detto stamane, in quanto segue: vestire la maglia azzurra mi dà un'emozione completamente diversa da tutte quelle provate finora nel calcio, domani per me sarà un giorno bellissimo, mi sento davvero un privilegiato. Conosco anche Lino Limameli, ma non lo so cantare, e questo Vabbè, insomma, magari poi si perfezionerà. Sono contentissimo di essere qui, lo è anche mio padre, che è già stato a trovare i nostri familiari a Rovigo. Presto ci andrò anch'io. Parlando sempre di Vigilia Azzurra, invece, Buffon, di cui vi ho già riportato prima una frase molto impegnativa e molto extracalcistica, ne ha detta un'altra che invece riguarda le cose di casa nostra, ma che trovo almeno altrettanto significativa. È la settimana di Juventus-Inter e Buffon ha detto: basta guardare al passato, basta con Calciopoli, io voglio guardare avanti perché il passato è importante ma il futuro lo è ancora di più. Io credo che non so quanto sarà apprezzata in società questa frase, no? Perché mi sembra che invece anche Marotta, che pure non c'entra nulla, ieri avesse provato a rimestare nel revanchismo e nel retrovisore. Vabbè, vediamo. Comunque è ovvio che mi pare assai più meritevole di attenzione e con speranze di proselitismo invece questa presa di posizione di Buffon. Lasciamo per un attimo la Vigilia Azzurra, che tanto poi, ripeto, troverà tutti gli spazi che vogliamo domani, e andiamo. Ieri si è assegnata a Coverciano, lo sapete, la panchina d'oro, che è stata vinta da Mourinho, e sono stati i suoi stessi colleghi, anzi ex colleghi nella fattispecie, a votare a maggioranza per lui. È stata l'occasione per incontrare alcuni tecnici che hanno chiacchierato di vari argomenti. Qualcuno è particolarmente interessante. Io sentirei per esempio Zaccheroni, fresco reduce da un magnifico successo alla guida del Giappone, parlare della compatibilità di giocatori giapponesi con la nostra Serie A. Sentiamo. Io credo che l'arrivo di Nagatomo all'Inter apra grandi prospettive anche per gli altri giocatori giapponesi, che hanno delle basi tecniche molto importanti e che secondo me facilmente si adattano anche al nostro campionato. E questo era Zaccheroni. Usciamo una volta dalla logica delle grandi squadre. Sentiamo Pioli, che è l'allenatore del Chievo Verona, che sta guidando con mano sicura. C'è stata una fase qualche settimana fa, una fase diciamo un po' complicata. Il Chievo non è che perdesse molto, però pareggiava quasi sempre, quindi con un punto non è che si faccia molta strada. Poi di colpo la vittoria di Brescia e l'altra della scorsa domenica in casa col Napoli, dello scorso mercoledì in casa col Napoli, hanno lanciato il Chievo in una posizione, direi, di sicurezza quasi totale. Sentiamo Pioli. Milan e Inter sono le squadre sicuramente più forti del campionato e il Napoli sta facendo molto bene e ha la possibilità di inserirsi. In questo momento il Napoli, poi domenica comunque ci sarà lo scontro diretto e vedremo, però il Napoli in questo momento sta correndo forte. E l'Inter è tornata ad essere la squadra che l'anno scorso ha vinto tutto in Italia e nel mondo, quindi è una squadra fortissima, però il Milan se è in testa significa che ha dei valori ottimi e secondo me se la giocheranno sino alla fine. No, assolutamente, noi siamo concentrati, soddisfatti dell'ultima settimana, assolutamente, perché per noi proseguire la nostra striscia di risultati positivi è stato molto importante, però dobbiamo arrivare prima possibile, o comunque il nostro obiettivo rimane arrivare a 40 punti e poi dopo vedremo. Se in nazionale va chi merita, scrive Lori da Milano, al posto di Cassano dovevano esserci o Pelissier o Di Vaio. Mi sembra difficile dar torto a questo SMS. Sentiamo Daniele dalla provincia di Ravenna. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Senta, io oggi leggevo la formazione di stasera dell'Italia. Domani sera, eh? Di domani sera, sì. Scusi. E mi è venuta una cosa in mente. Dico, cambiano gli uomini, cambiano i tempi, però la mentalità è sempre quella. Chiellini ha un anno e mezzo che non è un giocatore di calcio, secondo il mio, però è sempre là, titolare ineludibile, non si tocca. A me mi sembra provare, dato che non è Michele, provare qualche altro ragazzo non sarebbe l'ideale. Questa è la mia domanda, se gentilmente mi risponde. Sì, con piacere. Dunque, non un giocatore di calcio mi sembra un po' eccessivo. Voglio dire, Chiellini, adesso non dico come Cassano perché i problemi sono diversi, ma che su Chiellini si possa cominciare seriamente a discutere, sì, sono d'accordo. Anche alla Juventus, non soltanto in nazionale, secondo me, se parliamo di valori assoluti e di leader come invece sembrava. Però guardi che c'è già una discreta retrocessione da parte di Prandelli e anche c'è già stata da parte di Del Neri. Chiellini già la domenica scorsa non è più il centrale del centro-sinistra della difesa juventina, è l'esterno di sinistra, come più o meno aveva cominciato la carriera. Insomma, è stato un po' riconfinato, se vogliamo anche un po' ridimensionato come ruolo, sia da Del Neri lo scorso sabato a Cagliari, sia da Prandelli che lo ha annunciato in quel ruolo per domani sera, e poi vedremo, insomma. Però che ci sia una flessione da parte di questo giocatore di rendimento, ma anche di personalità, a parer mio, è un dato di fatto. Franco ha chiamato dalla provincia di Novara, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo fare proprio questa domanda, sono un tifoso della Juventus e mi ha già risposto, era proprio su Chiellini e su questo suo spostamento in concomitanza tra le due partite di sabato sera di Del Neri a sinistra e anche Prandelli, vedo che dalla formazione giocherà a sinistra e non riuscivo a capire appunto come mai riportarlo a sinistra, è una bocciatura vera o anche un discorso di necessità, cioè non ci sono terzini sinistri? La ringrazio e l'ascolto per radio. Non lo so, qualche alternativa certamente c'è. Io giocherei con Balzaretti, perché personalmente è quello che negli ultimi, se diciamo gli ultimi due campionati, a me sembra il più costante, il più brillante, il più interessante in quel ruolo. Poi giocando nel Palermo, e quindi non avendo grandi riscontri internazionali, essendo un po' meno comunque sotto i riflettori, non so valutare fino in fondo la caratura della sua fase difensiva, però quella offensiva è certamente brillante, anche perché è biondo, i biondi si notano di più, e questa è una vecchia storia. Però insomma, Balzaretti forse anche più di Criscito, per il mio, ma insomma diciamo che un paio di questi giocatori, senza essere né Paolo Maldini né Cabrini, nemmeno lontanamente, ma insomma la loro figura in quel ruolo la potrebbero fare. Io credo che prima di giubilare Chiellini, questo passaggio, cioè il fatto di riportarlo nel suo ruolo d'origine, sia un passaggio obbligato, perché poi Chiellini insomma, è una risorsa, no? E quindi sarebbe un peccato perderlo. Mi sembra che questo sia un modo di tenerlo sulla corda, di non rinunciarci, di non deprimerlo eccessivamente, e mi pare che valga sia per Del Neri che per Prandelli, mi pare. Marco, provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno signor Franzini, volevo tornare un secondo alla sua considerazione fatta ieri sull'Inter. Io sono un tifoso dell'Inter, sulla possibile rimonta, diciamo così. Io sinceramente seguo la squadra da parecchio tempo, però sono un po' inquietato sulla situazione della difesa. Quindi, ad esempio, contro la Juventus ho un po' timore, ecco, perché contro squadre con degli attacchi comunque importanti, come l'Udinese, contro la Roma, contro il Palermo, insomma, la squadra ha avuto difficoltà. Sì, l'attacco è esplosivo, però non so, sono un po' titubante. Ieri mi ha un po' rallegrato la sua considerazione che l'Inter poteva. Vorrei però evidenziare questo fatto qui, ecco, che l'Inter, prendendo una media di un gol e mezzo a partita, se non riesce a fare quel gol in più, non lo so, ecco, la mia considerazione, volevo sentire cosa ne pensava, grazie mille. Questo penso questo, l'ho già detto anche ieri, credo che lo pensi chiunque stia venendo a giocare l'Inter, che ha problemi difensivi abbastanza seri. Dicevo ieri che la disinvoltura con cui Vucinic e Boriello, sia pur non assistiti praticamente da nessun altro della Roma se non Menez a tratti, si è riusciti a mettere così in crisi un centrocampo e una difesa intere nel primo tempo, indubbiamente è un argomento che c'è, cioè una riflessione che va fatta, e in ogni caso in queste ultime partite non c'è dubbio che la difesa dell'Inter abbia destato molte ma molte perplessità. Dopodiché però l'Inter ha vinto 7 delle ultime 8 partite, qualcuna magari anche in maniera avventurosa. Adesso ha ritrovato un portiere che, anche se Castellazzi poi si era comportato complessivamente bene, ma insomma, mi sembra che questo sia il vero valore aggiunto di questa difesa. Ripeto, se domenica sera giocavano Julio César nella porta della Roma e Julio Sergio in quella dell'Inter, la partita finiva, soprattutto nel primo tempo, finiva molto diversamente, ma molto diversamente. Però anche questo è il portiere dell'Inter, e il fatto, in un campionato in cui le difese sono così più deboli rispetto ad un tempo, il fatto di poter disporre di una squadra che è in grado sempre di fare un gol più degli altri, magari non di prenderne uno in meno, ma di farne sempre uno in più, Forse è la risorsa vincente, fermo restando che esistono poi invece delle partite come per esempio quella di domenica prossima, in cui se la Juventus gira, se la Juventus ha ritrovato convinzione, e contro l'Inter non può che non averla al 100%, l'Inter rischia, ma il grafico, il percorso del campionato a me personalmente sembra invece abbastanza segnato in questa fase. Poi può darsi che vada come l'altro anno, che magari l'Inter, come l'anno scorso la Roma saltò davanti all'Inter e poi invece l'Inter effettuò il controsorpasso, magari poi andrà così. Ma adesso che il Milan stia patendo questo ritorno, non c'è dubbio, mi pare. Enrico ha chiamato da Pescara, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo fare una considerazione. Probabilmente io sono comunque come dire, condizionato dal passato calcistico della mia città, e quindi da Galeone, e ho apprezzato molto ultimamente quando era venuto in trasmissione da voi, e volevo riallacciarmi alla, tra virgolette, scarsezza del talento difensivo in Italia. Quando anche Galeone diceva ultimamente che per molto tempo si è considerati dei fenomeni Materazzi piuttosto che Chiellini, e tra virgolette il suo distacco dal calcio era dovuto anche alla mentalità che si stava creando in quel periodo. Mi ricordo l'ultimo anno che allenato ha salvato l'Udinese con il 3-4-3, perché non riusciva proprio più ormai a dialogare con i propri giocatori, perché si mettevano, come dire, si frapponevano anche i procuratori in gestione di ordinario rapporto con i giocatori. Certo. E credo che comunque tutto ciò sia stato una conseguenza, ha portato comunque alla situazione attuale, cioè, insomma, sarà un po' sfuggito di mano questo modo di operare attuale nel calcio. No, cioè, non c'è nessun dubbio che chi ha conosciuto un altro calcio faccia fatica a ritrovarsi in quello attuale. Questo vale per tanti, e vale in particolare per Galeone, che è sempre stato comunque un uomo colto e sensibile, e che quindi certe storture che maturavano e che si imponevano le ha sempre colte con più immediatezza di altri. Ultimo intervallo, strade. Consideri anche, scrive Roberto da Arezzo, la mancanza di Samuel, Chivu e Lucio. Allora, Samuel senza alcun dubbio, Lucio abbastanza, Chivu, ho ricevuto una mail ieri di un ascoltatore, mi pare si chiami Fabrizio Ornago, a memoria, che mi ha dato una mail e ha detto: io credo che l'Inter dovrebbe fare ricorso contro la squalifica di Chivu per 4 giornate, chiedendone 12, per essere ben sicuro che per un po' non se ne parla. Ogni tanto ci sono delle apparenti disavventure, no? Nelle squadre, che diventano poi dei colpi di fortuna o di merito in qualche caso, perché per esempio, se non sbaglio, domenica ho visto un'altra bestialità di Santon con la nuova maglia della squadra in cui sta giocando adesso, cioè di nuovo un pallone perso in una maniera assolutamente incredibile. Insomma, ci sono certe volte c'è il merito, no? di liberarsi di giocatori, magari anche solo temporaneamente, ma al momento giusto, e poi ci sono altri accadimenti, come quello per esempio che è toccato a Chivu, ma che per un po' ti costringe, no? a farne a meno, e non è detto che tutti i guai vengano per nuocere. Sentiamo cosa ha trovato Nicola Filippone per l'8 di febbraio. Sembra ieri. 8 febbraio 1978. Test importante per la nazionale di Berzot in vista dei mondiali d'Argentina. Al San Paolo arriva la Francia, che sarà poi avversaria degli azzurri nella prima gara del girone eliminatorio a Mar del Plata. Nel primo tempo l'Italia esercita una supremazia netta, portandosi sul 2-0 con doppietta del granata Ciccio Graziani. Nella ripresa l'astro nascente Platini trascina la Francia al pareggio, realizzando il 2-2 definitivo con una punizione rasoterra che aggira la barriera, sorprendendo Zoff. Vero, ricordo abbastanza bene. Claudio da Viareggio scrive: la Juve a sinistra è costretta a Grosso e De Ceglie, adesso a Chiellini, e pensare che Balzaretti e Criscito erano suoi. Beh sì, è la verità. Io credo che la Juventus abbia avuto un po' fretta di liberarsi di qualche giovane, e ne ho citati. Ho citato proprio questi due, più Nocerino, la scorsa settimana. Credo che questi tre giocatori, anche Cassani era della Juve, mi segnala Franco Piantarida prontamente dalla redazione. Ora, credo che tra Cassani, Balzaretti, Criscito e Nocerino, insomma, qualcuno di questi farebbero la loro porca figura adesso nella Juventus, no? Che al posto appunto di Grigera, insomma, di buona parte di quelli che ci sono in quei ruoli. Torniamo alle voci che stavamo ascoltando e sentiamo quella di Julio César, che dopo questo grande era già rientrato, insomma, da questa grande partita decisiva, prestazione decisiva contro la Roma. Sentiamo cosa dice. Siamo felici per quello che sta accadendo da quando è arrivato Leonardo. Penso che abbiamo trovato la strada giusta. Rimaniamo così. Con l'arrivo di Pazzo, di Cajà, Iotto, penso che sono stati degli acquisti importanti, guardando le prestazioni delle nuove acquisti. Pazzo e Cajà, penso che da quando sono entrati in squadra, stanno facendo molto bene. Leo è un allenatore che è nuovo in questo lavoro, diciamo così, e che può crescere tanto. È un allenatore intelligente. Gli auguro tanta fortuna in questo nuovo lavoro che ha scelto lui. Giocare con la nazionale è sempre stato il suo sogno. È un lungo servizio dell'Ansa appena uscito, dal titolo Thiago Motta in azzurro grazie a un bisnonno veneto. La storia, eccola qua, raccontata appunto dall'Ansa. Thiago Motta deve ringraziare il bisnonno Fortunato Fogagnolo di Polesella, provincia di Rovigo, figlio di Alberto e di Maria Culatti, decise di abbandonare la miseria negli anni 20, tentando la fortuna in Brasile, dove morì giovanissimo dopo aver trovato moglie. Dall'unione con una ragazza brasiliana nacque una figlia che è appunto la nonna di Thiago Motta. A Polesella c'è grande euforia, eccetera, eccetera. Marco da Roma, buongiorno. Salve, dottor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Senta, le volevo chiedere delle cose riguardo alla Roma. E innanzitutto sulla partita con l'Inter. Io penso che sia stata poi determinata dagli episodi che sono importanti negli sport, però non ho visto queste grandi differenze di valori fra le due squadre. Beh, e poi io, pur amando la follia del capitano, se ormai è tutto il momento che si ritiri, secondo lei? Perché io ho visto un'altra Roma completamente. Sì, certo. Il declino di Totti è abbastanza evidente, è abbastanza palese, soprattutto in un certo genere di partite. Rimane poi il fatto che lei dice che non ha visto questa grande differenza, ma insomma a gioco lungo la differenza invece c'è stata, mi sembra. Non c'è stata per una mezz'ora, 40 minuti, in cui forse in cui sono state brillanti uguali, e considerato che Sneijder ha inventato un gol fantastico dopo due soli minuti, che avrebbe potuto mettere KO immediatamente chiunque. Invece la Roma è stata molto brava a reagire, a ripartire. Poi però se davanti al gol di Sneijder qualunque difesa, secondo me, qualunque allenatore avversario anche prende, si alza, batte le mani e dice, cioè, e non se la prende con i suoi, cioè, perché non c'è l'errore di nessuno, c'è soltanto la prodezza di un avversario che in una frazione di secondo il pallone lo controlla e al volo lo calcia nel set più lontano, e sinceramente non si vede bene cosa, col piede non suo tra l'altro, e non si capisce bene uno cosa possa fare in quel caso, se non appunto applaudire. Beh, sul secondo gol io credo che sia cominciata quella saga un po' oratoriale invece che ha accompagnato poi il secondo tempo, nel senso che Eto'o fa il massimo che può fare, ma di quattro difensori che ha davanti, Riise in particolare, che ha questo vecchio vizio, questo vecchio limite, rinculano fino a quando non gli lasciano lo spazio per battere comodo. Dopodiché il portiere si colica anche un po' in ritardo, e quindi lì diventa già un discorso un po' diverso, per il mio. Giuseppe, prima di Giuseppe, c'era questa mail che da ieri mi tormenta, poi capirete perché, firmata Peppe, e dice: quello di ieri è stato il terzo rigore consecutivo, dopo quelli col Napoli in Coppa Italia, col Palermo in campionato, che Eto'o batte in maniera vistosamente irregolare, fermandosi di fatto durante la rincorsa. No, io direi di no, nel senso che la rincorsa la rallenta, certo, come fanno in tanti, come fa Miccoli, mi viene in mente Miccoli, ma insomma, la rincorsa, se viene interrotta, sì, comporta la ripetizione del calcio di rigore. Se viene rallentata, oggi c'è sempre più tolleranza. Eto'o la rallenta nella prima parte della rincorsa e poi la continua. Ma la cosa più inquietante è questa: sarebbe il caso che un opinion leader come lei prendesse posizione su questa furbata? Allora, io Peppe la ringrazio, ma la diffido anche dal ridefinirmi opinion leader, la prego. Giuseppe da Ferrara, buongiorno. Oh, buongiorno, signor Garanzini. Dica. A cosa serve il caschetto? Il caschetto quando lo portano slacciato, tipo Čech o Kivu? Cioè, serve a qualcosa il caschetto? Dunque, il caschetto. No, perché io ho una statistica sugli ultimi interventi di ogni puntata e quindi stavo pensando a rinfrescarla. Il caschetto slacciato, mi diceva. Il caschetto serve a proteggere la capoccia dai colpi, no? Immagino. Cioè sì, fin qua sì. Lo slacciano forse ogni tanto perché magari hanno smesso un attimo di correre e vogliono respirare un filo in più, no? Va bene, grazie. Va molto bene, grazie a lei Giuseppe. Fortuna che sono le 14.55 e 35 secondi, grazie a Roberto Scaltritti in regia, a Franco Piantanide in redazione, buon pomeriggio a tutti, a domani.